Eccoci, oggi inizio addirittura 10 minuti prima, così per confondere le acque. Avevo detto aver iniziato sempre alle 21:30, ho mentito. Ora inizio in realtà alle 21:21 perché ero qua da un sacco di tempo e sono stanco, non c'ho voglia di aspettare. Inizio prima, così. E a questo giro vi faccio ascoltare un best of di Howlin' Wolf, visto che l'altra volta avevamo ascoltato Screaming Jay Hawkins. Poi non lo sapevo, ma in realtà anche la puntata di Saturday Night Live era dedicata a Screaming Jay Hawkins, quindi ci siamo perfettamente coordinati e voi ve lo siete ascoltati per due volte nell'arco di brevissimo tempo. E questo perché io non guardo il sito essenzialmente di Radio Wombat, e quindi non mi accorgo delle cose se non con lieve ritardo. Il sito ve lo ricordo, visto che non lo dico mai, è wombat.noblogs.org, e questa è la 30ª puntata di Coccoli al Silicio. Per oggi non ho tantissimissimissimissime notizie, news fresche fresche come le altre volte. Sarà più un pellegrinare tra alcune cose che mi hanno interessato, anche vecchie, che ho così ho trovato in giro per la rete, nel mio girovagare annoiato essenzialmente. Vabbè, prima di tutto apro dicendo doverosa chiosa alla vicenda di Facebook di cui avevamo parlato qualche settimana fa, cioè quella dei 50 milioni di account diciamo sottratti attraverso un hack che è stato sommariamente spiegato dalla stessa Facebook, e io ho tentato di spiegare l'altra volta con poco successo perché tanto non te lo vogliono dire come hanno fatto. Ebbene, Facebook ha detto che non sono più 50 milioni, ha riveduto le cifre, ha detto, beh, forse sono, quasi sicuramente sono 30 milioni. Tant'è, cioè, chi se ne frega, cioè, ve lo dico solo perché sennò poi sembra che le cose le abbandoniamo, le vicende, e invece noi no, siamo sempre qui a seguire tutte le news di questo mondo a caroso. Più o meno interessanti. Questa lo era in vero, almeno per me, molto molto molto poco. Un'altra invece notiziola più bellina che ho trovato è che uno dipartimento che io assolutamente non conoscevo prima di leggere questo articolo, ma ho scoperto che negli Stati Uniti hanno un dipartimento governativo che è quello che fa le pulci a tutti gli altri, e si chiama Government Accountability Office, sostanzialmente ha bacchettato il Dipartimento della Difesa presentando un report che proviene in realtà da un'analisi dei test di sicurezza che lo stesso Dipartimento della Difesa ha fatto alle loro strutture. Da questi test emerge che sostanzialmente la maggior parte delle strutture informatiche che in qualche modo vengono utilizzate nell'arsenale militare statunitense, in realtà soffrono, diciamo, di problemi di sicurezza abbastanza banalotti, tipo, che ne so, password di admin. Di cose che magari sono dei missili intercontinentali di default, oppure non perché non è che c'è la password di default del missile intercontinentale, cioè non funziona così, però diciamo che se nella stessa rete ci sono delle infrastrutture informatiche, no? Quindi non direttamente, ma dei server, delle cose che magari hanno anche del software diciamo libero, visto open source, perché il Dipartimento della Difesa probabilmente ne utilizza e anche parecchio, credo. E ecco, se queste strutture poi uno lascia le password di default, è un problema. E questo articoletto che è apparso su Wired racconta appunto di questo report, specificando alcune delle cose che sono state trovate in maniera chiaramente vaga, vaga, perché quando si parla di militare non si scende mai nel dettaglio, però diciamo questo report era stato sollecitato dal Senato essenzialmente per capire come venivano spesi i soldi, nel senso che se te c'hai un budget di un sacco, sacco, sacco, sacco, sacco di soldi per comprare un arsenale grosso, grosso, grosso, grosso e poi mantenerlo, e poi però diciamo questo è attaccabile in maniera semplice e banale, perché quello che dall'articolo si intuisce e che appunto questo dipartimento che bacchetta gli altri naturalmente ha notato è che questi penetration test fatti interni al Dipartimento della Difesa in realtà non hanno sfruttato delle robe particolarmente arzigogolate. Spesso era un test, diciamo, con dei tempi stretti, cioè quelli di un test, quindi magari una settimana, 2 giorni, 3 giorni. E in alcuni di questi si è evidenziato come dopo la prima o la seconda ora di test, quelli che l'hanno fatto, sostanzialmente riuscivano a compromettere le macchine. Di solito riuscivano a comprometterle per, banalità, tipo password deboli oppure appunto password di default o cose simili. Questo ha interdetto un pochino il Senato. Il Dipartimento della Difesa, a quanto capisco da questo articolo, non ha commentato, nel senso che non si è ancora espresso in merito. E vabbè, con questa notiziola così spero interessante, vi lascio un pochino di musica ancora del buon Howlin' Wolf e poi parto con le altre mie notiziole che questa volta saranno un pochino più tecniche, ma alcune anche piuttosto facete e divertenti, spero. La prossima cosa che vi volevo raccontare è in realtà presa da un mio pellegrinale su il sito del DEFCON, che è una conferenza di hacker americani piuttosto molto molto famosa in verità. E io solitamente mesi dopo, cioè che questa cosa è avvenuta, mi sembra che era in estate, era qualche, non mi ricordo dove, cioè mi ricordo dove, ma non mi ricordo precisamente il mese, e dove, boh, in realtà non me lo ricordo neanche tanto quello, poteva essere di solito a Las Vegas, però non è detto che quest'anno sia la bocca, che ne so io. Comunque, io normalmente mesi dopo vado a vedere i materiali che hanno prodotto, visto che di fare prendere il volo e andare negli Stati Uniti fino laggiù io non c'ho voglia, che soffro l'aereo tantissimo e anche gli aeroporti ancora di più. E quindi sostanzialmente mi accontento di sbirciare i video e le slide e nel cercare qualcosa così da raccontare e anche di interessante a caroso. Ho trovato questo bellissimo, bellissimo talk, credo sia stato forse il più bello di tutto il DEFCON, di quelli che ho visto, credo, cioè di quelli che ho scorto le slide, chiaramente non ho visto. E che sostanzialmente si poneva il annoso problema di effettuare reverse engineering del nuovo modello di Teddy Ruxpin. Teddy Ruxpin era un bambolotto, un orsetto che andava fortissimo negli anni 80, nell'85-86, era tipo l'orsetto più più venduto del mondo, un vero successo commerciale. E fatto sta che ne hanno fatto altre edizioni che chiaramente sono ora più tecnologiche. Cioè parla, poi mi sembra che fa qualcosa con gli occhi, tipo gli si disegna i cuoricini negli occhi. Cioè, ma fa delle cose in cui dentro c'è chiaramente della tecnologia, se no non le potrebbe fare, perché quello vecchio c'aveva la cassetta. Cioè, tu ci mettevi dentro la cassetta, quella nastro magnetico, e gli facevi dire delle cose. In quello nuovo, invece, sostanzialmente, cosa succede? Che dentro c'ha una specie di... è un computer sostanzialmente, un armamentario che loro hanno dissezionato. Infatti, se vi guardate le slide, che poi vi metto il link sul blog, si vede chiaramente come i display che fanno gli occhi, altro non siano che un armamentario, una scheda, ecco. Nella quale si vede anche appiccicato il grosso naso, se la vedete nelle foto. Loro l'hanno praticamente smontato tutto, fa molto effetto questa cosa di vedere l'orsacchiottoso, capito, che prima era tutto peluscioso, poi zrac, lo smonti e dentro ti rendi conto che è soltanto un maledetto automa tecnologico, come un Terminator, capito? Cosa hanno fatto questi signori? Oltre a questo lavoro interessante, hanno preso il firmware dell'oggetto e se lo sono reversati, l'hanno reversato tutto. Tra l'altro è interessante, dicono anche i tool che hanno utilizzato, c'è qualche slide che mostra qualche screenshot da cui si capisce il lavoro che hanno fatto e come l'hanno fatto. E hanno la cosa più bella di tutte, reversato il formato proprietario con il quale il Teddy Ruxpin encoda sostanzialmente i file che poi lo fanno parlare, cantare quello che fa sto cavolo di coso. E quindi cosa è successo? Hanno poi scritto un robo in Python che è in grado di produrre questi file musicali e poi buttarli sopra al buon Teddy Ruxpin. E quindi sostanzialmente potremmo avere, io lo lancio così come idea nella comunità di Hack Meeting, essenzialmente un'evoluzione del manneggiatore di cui abbiamo parlato qualche volta. Si tratta di un oggetto che sostanzialmente manda mannagge nell'etere o nelle... A livello, cioè, sonoro uditivo, insomma, con gli oggetti più strambi, ecco, potremmo avere un'evoluzione del manneggiatore per Teddy Ruxpin. Cioè, potremmo vedere quell'orsacchiottoso, capito, con gli occhi rossi e assatanati come un piccolo demonio che mannaggia a tutti i vari santi e dei e cose simili. E questo è un mio desiderio. Io non so se avrò la forza psicofisica e mentale di realizzarlo, anche perché sto Teddy Ruxpin costa, cioè, tipo $100, non è che... Però se qualcuno avesse un Teddy Ruxpin e volesse portarlo in una degli incontri diciamo, del giro di Hack Meeting durante l'anno. Ce ne sarà uno ora a Bologna e poi uno a Napoli e poi chi lo sa, e sarebbe tanto bello riuscire a far manneggiare il Teddy Ruxpin. Questo è il mio sogno di bimbo, ecco. E ora vi lascio a un altro po' di musica. Ora un giorno dovrei trovare una perifrasi meglio di vi lascio a un altro po' di musica, perché lo dico sempre in continuazione. Secondo me è noioso. Cioè, dovrei trovare dei modi per lanciare la musica che siano più belli di vi lascio a. E posso anche stare zitto e mettere solo la musica. pomeriggi di peregrinazione annoiate, sono capitato, ogni tanto lo faccio, a guardare il sito di una delle fanzine storiche che ancora si picca di uscire nel formato fanzine elettronica, che è FRAC, e poi vi metto il link. Comunque il sito è www.frac.com. Loro hanno praticamente da un po' di tempo adottato questo modo, siccome nel raccogliere probabilmente una fanzine, non essendo più gli anni in cui la gente scrive su le fanzine, che invece hanno dominato la scena hacker sostanzialmente fino all'inizio del 2000. Loro hanno preso a pubblicare delle specie di anteprime degli articoli che gli arrivano, o meglio, non sono anteprime, diciamo che sono quelli che poi includono anche veramente nel numero più altri, però li pubblicano via via in modo da dare una sorta di continuità e non far uscire sostanzialmente, come hanno fatto spesso, un numero ogni 2 o più anni. E di solito i numeri meritano, nel senso che anche se ci mettono tanto a farli uscire sono belli. Con questo sistema qua almeno qualche volta arrivano degli articoli interessanti da leggere anche durante l'anno. E appunto oggi riguardavo, visto che ce n'è uno di data 28 settembre, quindi è abbastanza recente, non me ne sono accorto subito, ma ve lo relaziono volentieri. Si tratta di un articolo anche con un piglio storico interessante, si intitola 20 Years of Escaping the Java Sandbox. E ora qui ci sarebbero un sacco di termini da spiegare, però io mi picco di spiegarli, visto che mi piace provare a introdurre anche questi concetti, sperando che magari chi mi ascolta si incuriosisce e qualcosina, cioè, lo prova davvero, posto che anch'io non è che sono il drago dei programmatori Java, quindi lo leggo, ma è cultura personale, non è che capisco veramente anch'io proprio tutto, tutto, tutto, tutto, e poi lo studio in maniera approfondita. È una lettura così, cioè, diciamo, c'è una curva d'apprendimento, cioè passata alla quale puoi anche spulciare così. E qualcosa ci trae. E anche se alcune problemi all'inizio, nel senso che ora faticate di più, comunque secondo me sono sempre articoli interessanti, anche solo cercare di capire, poi dire vabbè, non ci ho capito niente, però vagamente l'argomento so che è uno di quelli che si tratta in questi ambiti. E allora si è detto 20 anni di fuga dalla sandbox Java. Vabbè, Java è il linguaggio. Penso l'abbiate sentito nominare, nel senso che ci hanno sostanzialmente annoiato un sacco dalla metà degli anni 90 in avanti, che bisognava programmare in Java, programmare in oggetto, sennò poi sembrava che il mondo della programmazione sarebbe crollato nel caos e nel disordine. Ora tutti programmano in Java, e infatti sono nati molti altri linguaggi perché il Java sostanzialmente è sì, multipiattaforma, ma è noiosissimo e lentissimo. E vabbè, comunque c'è un sacco di software scritto in Java, anche la maggior parte delle cose che girano sui vostri turbofonini sono fatte in Java. E questo è un articolo sostanzialmente dedicato ai metodi per evadere nella storia, quindi fa una retrospettiva di vari metodi per evadere dai meccanismi di sicurezza che Java impone ai propri applicativi al fine di creare questa che è un termine che si usa spesso nell'ambito, diciamo, della programmazione sicura, cioè sandbox, che sarebbe che io chiudo il mio programma in una cosa che in qualche modo ne limita non le funzionalità, però diciamo ne limita le possibilità che i bug si traducano in un disastro o in una possibile falla per tutto il resto del sistema. Ci sono le sandbox dentro i browser, dentro Chrome, c'è la sandbox, no? Quella fatta da Google, eccetera, e fa in modo che se anche i software, diciamo, che gira là dentro, no? Cioè i singoli, sostanzialmente, quando voi visitate un sito, non si parte dal sito e si arriva a bucare il computer. Almeno in teoria questo dovrebbe servire la sandbox. È un modo di isolare i contesti in cui girano i programmi. Ecco, in questo articolo si disquisisce di tutti i vari metodi che negli anni sono stati utilizzati per violare questa sandbox, quindi per fare cose strambe che poi si traducono nel poter fare cose che questa sandbox vorrebbe impedire. Non ve li elenco, sono un po', non è un articolo in vero lunghissimissimo, non è neanche io ho iniziato a leggerlo e non è affatto incomprensibile, cioè è scritto bene, con un piglio anche storico che secondo me potrebbe interessare chi si diletta di queste cose, quindi io ve lo consiglio, me lo dateci un occhio se poi proprio non vi piace. Pazienza, cioè ne leggete un altro, ce ne sono altri, non è che dovete, cioè se tanto non l'avevate mai vista sta fanza, vi leggete gli altri numeri, se no basta, se no avete perso 2 minuti, che vi frega. Musica. You half the whole room. That's evil. Evil is going on. E ora invece vi parlo di sempre un altro argomento piuttosto tecnicoso. È una segnalazione, mi è caduto l'occhio, ogni tanto scorgo, cioè scorro sostanzialmente le notizie prese dal gruppo di Reddit, che è un sito www.reddit.com, dove sostanzialmente si discute di cose per temi. Io seguo ogni tanto, così me lo guardo in realtà dal web, non c'ho l'app, insomma, non sono uno di quelli che sa le cose subito perché cioè, quando ho tempo ci butto un occhio e basta, è più sano secondo me. E comunque ogni tanto scorgo appunto questo gruppo ed era passato un po' di articoli di un tipo che mantiene un blog, un tale che si chiama Kate Makan, che io non conosco, quindi non è che gli fo pubblicità perché c'ho un interesse, che non, cioè, si chiama così proprio pure i blog, quindi cioè, più o meno cioè, è scritto in una maniera un po' hacker, ma è sempre quello. È un tizio che, a quanto capisco, ha scritto pure un libro su la sicurezza di Android, almeno così è pubblicizzato sul suo sito, però la parte che a me interessava è che ha fatto una serie di tutorial divisi in parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 per spiegare il formato del file, il formato di file ELF che è sostanzialmente quello utilizzato da parecchi Unix, tra cui anche Linux. Quindi è il formato dei file di Linux. Ora, perché è interessante? È interessante perché dal punto di vista del reverser, cioè di quello che sostanzialmente prende un eseguibile e poi lo analizza per interpretarne il codice. No? Se vi è familiare questo concetto, quando voi avete l'eseguibile, non avete il codice del programma, avete un coso che lo capisce solo il computer cosa deve fare. No? Però quel coso è in un formato. Se noi rileggiamo quel formato e lo capiamo approfonditamente, pian pianino, con molta calma e utilizzando opportuni strumenti, siamo in grado di in qualche modo risalire a qualcosa che assomiglia a un sorgente. E quindi a capire come il programma funziona, se il programma ha dei bug, se quei bug li possiamo sfruttare, oppure se riusciamo a far fare al programma cose che non dovrebbe fare. Cioè, banalmente, quando voi prendete, che ne so, dei programmi che, diciamo, richiedono una registrazione, una licenza o queste cose qua, qualche volta no, gli applicate il crackme perché non volete pagare furbetti, no? Queste cose, il crack, cioè se vi applicate il crack, non il crackme, i crackme sono gli esercizi per fare queste cose, però gli applicate il crack, che non è la droga, e si chiama proprio così, ed è che quella cosina, capito, che vi sblocca la licenza, ve lo registra, fa finta che l'ha registrato anche se non lo è, e via così. Questo lo sapete tutti, come, ce cioè lo fate tutti, lo so che lo fate. Ebbene, e questo signore ha scritto appunto questi articoletti dedicati al formato di file Linux, che è una roba super interessante su cui io mi ero intrippato già anni fa, tanto che quando c'è stato l'ACMeeting in Val di Susa, quindi 2 anni fa, avevo provato a fare un seminario su queste cose, e per me è una roba super interessante, ma io sono un personaggio strambo che si interessa di cose strambe qualche volta. E comunque, questo mi era piaciuto perché l'alternativa, diciamo, a questo che lui cita spesso è anche leggervi un libro che secondo me è molto bello, è uscito un paio di anni fa, ma è super ganzo. Si intitola Linux Binary Analysis, scritto da un tipo che è un reverser piuttosto noto, che si chiama Elf Master. E niente, vi metto poi il link a questo blog da cui vi potete pigliare questi tutorial se siete interessati a capirci un po' di più. Lui parte proprio dalle basi, cioè analizza completamente il formato ELF, e quindi poi alla fine di tutto questo addirittura capirete perché quando lanciate un programma esso poi fa delle cose. Forte, no? Cioè, secondo me è interessante. E ora facciamo che sentiamo ancora un pochino di All in Wolf, e poi mi preparo a chiudere la puntata con un appuntamento, almeno uno o un paio di appuntamenti, e poi i consueti saluti e di nuovo la bobina e via via, così come ogni lunedì quando io trasmetto. Che ormai adesso sono bravo perché è inverno, sono preciso, ci sono quasi sempre, però non abituatevi perché potete sparire da un momento all'altro. Pam pam pam pam. E questa invece che vi faccio ora è una segnalazione. Vabbè, la prima cosa è che ho capito finalmente, anche se ancora non l'hanno messo scritto da nessuna parte, in realtà, quando sono i corsi all'ECLAB, IFDU, alla Polveriera qui a Firenze, ho compreso che è iniziato già mercoledì scorso un corso di informatica di base che parte un po' dall'architettura di un computer, sostanzialmente, e che durerà fino a fine ottobre tutti i mercoledì. Non penso che il 31, che è Halloween, ci sia, ma non sono sicuro. Penso che siano 3 lezioni, di cui una è già stata. E poi ci sarà, e questa è la segnalazione, il 7 novembre, mercoledì 7 novembre, la presentazione del numero 45 di Zapruder, che è una rivista di storici e similari, riuniti in collettivo, che esce da un po' di anni. Fanno dei numeri monografici dedicati ad alcune tematiche. Questo numero, che verrà presentato appunto mercoledì 7 novembre, si intitola Hack the System ed è dedicato a un tentativo di storia dell'hacking, storia corale, corale nel senso che è una storia dei personaggi che loro hanno. A cui a loro hanno chiesto di scrivere della loro esperienza, e poi con questo viene composto il numero. In questo senso è un numero, diciamo, in questo senso è storia corale, ecco. E vi leggo la piccola presentazione che loro fanno sul loro diciamo che allegano alla rivista online. Il numero di Zapruder lo potete acquistare, penso, alla presentazione oppure richiederglielo, non lo so. So che un anno dopo, comunque, che è stato pubblicato, viene reso disponibile anche il PDF. Ora penso sia stato pubblicato, tipo 6 mesi fa, quindi dovete ancora aspettare se non volete comprare la rivista. Dunque, vi dicevo, questo abstract di presentazione, così capite anche cosa andate a sentire il 7 novembre alla Polveriera. Dice: Hack the System. La storia dell'hacking come lo conosciamo oggi ha origine negli anni Ottanta e nei fenomeni controculturali che li attraversarono. Di questa esperienza abbiamo tentato in questo numero di offrire una delle prime forme di narrazione corale disponibili nel contesto italiano. Partiti con l'intenzione di affrontare la storia dell'hacking in una prospettiva globale, è diventata per noi dominante l'idea di affrontare la nascita e l'evoluzione dell'hacktivism, cioè del nesso delle pratiche hacker con l'attivismo e la militanza politica. Questo perché abbiamo preferito concentrarci su un percorso profondamente politico e peculiare del contesto italiano. Nonostante la consapevolezza della non neutralità della tecnica, i movimenti italiani, infatti, riflettono da almeno 3 decenni sull'uso sociale delle tecnologie digitali, dimostrando un particolare interesse per i nuovi media e per il loro uso ai fini di una comunicazione e una controinformazione libere e indipendenti. Nella costruzione del numero abbiamo seguito le reti dei protagonisti dell'hacking italiano e ci siamo avvicinati a coloro che, prima di noi, si erano interessati di queste storie. La linea di demarcazione tra gli uni e gli altri si è rivelata labile. Per questo ci è impossibile distinguere con certezza quanto ci sia di emico, cioè proveniente dall'interno della scena, e quanto di etico, cioè frutto di interpretazione in questo numero. Forte. Ora, quest'ultimo capoverso è veramente difficile. Forse Emiko non si riferiva quindi proveniente dall'interno della scena, ma era proprio un attributo del tipo di narrazione che fanno. E niente, io l'ho sfogliato il numero, ma non ho ancora avuto occasione di leggerlo. A sto punto avrei anche dovuto vedere la presentazione all'Hack Meeting di quest'anno a Genova, ma secondo me non lo so cosa stavo facendo. Forse sono arrivate le focaccine ed ero a mangiare la focaccina. Mi sono distratto. Mi sono distratto, me ne dispiaccio, però sono contento che comunque me li vedrò qua il 7 novembre a Firenze, e così mi leggo anche qualcosa di questo numero, che poi magari in una qualche forma potrei anche riproporre in un qualche puntata successiva. Ora, magari non interi articoli, ma spezzoni particolarmente interessanti. Sarebbe senz'altro bello, sì, e forse lo farò, forse lo farò. E vi do per questo, cioè vi do con questo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo ancora i corsi in quel della Polveriera. Ora, se grazie loro lo scriveranno anche sul sito, ve lo potrò mettere, se no continuerò a ripetervelo io come un criceto sulla ruota a ogni puntata, sostanzialmente. Con questo vi saluto, spero vi sia piaciuta con la sonora di Howlin' Wolf. Ve la lascio ancora qualche minutino e poi bobina e via e via. Ciao a tutti. Asked her for water. Oh, she brought me gasoline. Tony. baby. Coming back home.